nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 8 marzo, il sole in regione sorto alle 6.33, tramonterà alle 18.04. Domani c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Tra 20-30 anni, causa ai mutamenti climatici in corso, viticoltura ed enologia potrebbero essere profondamente cambiate e i vini che beviamo adesso solo come un lontano ricordo. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che ci parla delle razze bovine e di come siano un'invenzione dell'uomo. Per le normative avremo le novità in tema di contributi regionali per ristorare i danni fatti dalla cimice marmorata asiatica e per la rubrica dell'olivicoltura le regole base per l'impianto. Per Parche e Giardini entriamo in una magione a vita, la Brunelde di Fagagna, mentre per lo spazio che dedichiamo alla ricerca dall'università analizzeremo i risultati di una tesi innovativa e strategica sull'impollinazione degli olivi. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della luna chiudono la puntata. Vino e vite e cambiamenti climatici. Se ne sta parlando sempre di più perché ci sono delle variazioni, dei mutamenti in atto in vigna e in cantina. Quali? Ne parliamo con Rodolfo Rizzi, che è il presidente di Asso Enologi del Friuli Venezia Giulia. Partiamo dalla vite. Ma sicuramente questi cambiamenti climatici li vediamo soprattutto con i fenomeni meteorologici, quindi che d'estate interessano la nostra regione: forti precipitazioni, le bombe d'acqua, forti grandinate, carenza d'acqua a causa di poca piovosità. Quindi abbiamo una serie di problematiche che coinvolgono la vigna. Il cambiamento climatico che c'è stato in questi ultimi 20-30 anni è stato significativo perché abbiamo aumentato la temperatura di circa 1,5 gradi di media annua. Quindi cosa ha portato questo? Questo ha portato ad un accorciamento della fase vegetativa della pianta, quindi dal germogliamento alla maturazione del frutto, quindi la maturazione dell'uva, il tempo si sta restringendo. Ecco che se 30 anni fa vendemmiavamo ai primi di ottobre, per dire, oggi siamo già arrivati verso fine agosto. Quindi questo sta portando delle mutazioni. E le previsioni cosa dicono? Il problema, allora, se fino adesso questo può essere gestito perché abbiamo avuto dei vini anche molto più strutturati, molto anche più alcolici, anche molto ben accettati dal mercato, le previsioni, quindi la proiezione per i prossimi 30-50 anni e addirittura verso fine secolo, ci mettono di fronte ad un quadro che non è proprio molto allegro. Infatti si parla addirittura di un aumento di 2-2,5 gradi di temperatura a fine secolo. E questo cosa comporterà? Comporterà una riduzione sempre maggiore della fase vegetativa della pianta. Quindi dobbiamo correre ai ripari se vogliamo mantenere la viticoltura nel nostro territorio, e visto che la viticoltura non può essere delocalizzata. Cioè, noi non possiamo pensare che i nostri viticoltori tutti si spostino più a nord del 45° parallelo, che oggi è la fascia ideale per la coltivazione della vite. Vediamo che lo Champagne si è già spostato a coltivare addirittura in Inghilterra, proprio per spostarsi verso il 50° parallelo, proprio per avere delle condizioni ottimali. Quindi noi dobbiamo correre ai ripari per salvaguardare la pianta. Si utilizzano delle forme, delle tecniche di allevamento che devono essere ben controllate. Si parte da protezione del grappolo. Ci sono anche dei sistemi di rete protettiva per ombreggiare la vite affinché il grappolo non si scotti. Dobbiamo tener conto che i 35 gradi che oggi registriamo durante l'estate è il tetto massimo dove la vite può sopportare questa temperatura, altrimenti abbiamo scottature, e con la scottatura del grappolo abbiamo delle modifiche soprattutto della parte aromatica. Ecco, che vini saremo costretti a bere? Nei prossimi decenni dobbiamo stare attenti a non avere dei vini che completamente cambieranno, perché troveremo delle uve che andranno totalmente in sovramaturazione, quindi perderemo le caratteristiche principali del vitigno e acquisteremo dei sapori legati proprio a una sovramaturazione. Andremo a omologare un po' tutte le varietà, e questo è il pericolo che i nostri ricercatori stanno cercando di proteggere. E quindi oggi più che mai c'è bisogno di ricerca affinché ci sia la possibilità di trovare sia dei porti innesti più adatti per queste carenze idriche, perché la pianta ha bisogno d'acqua, però l'acqua ce n'è sempre meno, sia varietà che possono resistere a questi sbalzi termici e sia soprattutto i futuri impianti dobbiamo adeguarli a questi cambiamenti. Quindi se una volta impiantavamo con l'orientamento a sud per prendere il massimo del sole, oggi per il futuro saremo costretti a impiantare verso nord per proteggere la pianta del sole. Avremo la viticoltura di montagna? Ma la viticoltura di montagna già esiste e vediamo che ha degli ottimi risultati. Basti pensare al Trentino, all'Alto Adige, dove anche loro soffrono questo cambiamento, anche loro pensano di spostarci più in alto. Se oggi la quota è 350 metri sul livello del mare, il tetto massimo per tenere un vigneto, nei prossimi anni ci spostiamo oltre i 500-900 metri. Enos Costantini oggi ci parla di razze bovine, di come siano un'invenzione dell'uomo e come in Friuli non siamo stati capaci di mantenerne neppure un nome. Avevo anch'io l'idea che le razze fossero sempre esistite. Mi riferisco qui a quelle bovine. Pensavo cioè che il mondo conosciuto fosse diviso tra pezzate nere e pezzate rosse. In realtà la stessa parola razza non è molto antica, non viene nemmeno dal latino, bensì dal francese haras, col quale si indicava un allevamento di cavalli destinati alla riproduzione. Dai dipinti visibili nei musei si può dedurre che fino alla fine del Settecento ci fossero delle popolazioni bovine piuttosto eterogenee, e solo con l'Ottocento si possa parlare di razze. Queste si sono formate grazie alla selezione praticata dall'uomo, il quale ha ideato i cosiddetti standard di razza, un riferimento teorico a cui le bestie si devono uniformare. E ho detto uniformare perché nella formazione delle razze si è cercato il massimo di omogeneità al loro interno. Nella zootecnia la eterogeneità non va bene. Il commerciante che acquista un gruppo di manze deve rassicurare la clientela circa il loro futuro produttivo. Così dicasi per l'allevatore. Non può sperare nella vacca stacanovista, sapendo che le stesse probabilità di trovarsi in stalla una inveterata scansa fatiche. Meglio una media sicura. Anche nella precisa Svizzera c'erano popolazioni bovine disformi delle più svariate cromature. Con l'Ottocento si sono divaricate in friburghese pezzata nera e in simmental pezzata rossa. La prima è scomparsa davanti allo strapotere di un'altra pezzata nera, una maggiorata degna della rivista Playbull. La Simmental invece è stata importata a fine Ottocento in Friuli, dove, in memore di orologi, di banche di cioccolato, è felicemente diventata pezzata rossa friulana. Siccome nel Novecento il Friuli aveva troppo buona immagine, e a noi friulani ciò non piace, guai a mostrare la muse, e poiché siamo ritrosi, timidi, poco inclini a vantare le nostre glorie, malaticci di understatement, di sudditanza, di sottanesimo, l'abbiamo ribattezzata pezzata rossa italiana. Ovviamente nessuno ce ne rese merito. Gli italiani sono un popolo di santi, di poeti, di navigatori e sempre meno di allevatori. Mentre si cercano soluzioni sostenibili per contenere la cimice asiatica, l'amministrazione regionale apre una linea di credito agevolato per le aziende danneggiate. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Il lavoro di ricerca che vari enti, fra cui anche la nostra ERSA, stanno conducendo sugli antagonisti naturali della cimice asiatica comincia a dare i suoi frutti. Ma a tutti è evidente che ci vorranno anni prima che la cosiddetta Vespa Samurai ristabilisca un equilibrio biologico soddisfacente. Nel frattempo le imprese, specie quelle frutticole, soffrono per i mancati redditi delle ultime 3-4 annate e in alcuni casi alle perdite si sommano anche i costi per la realizzazione delle reti antinsetto che purtroppo si sono rivelate poco efficaci. Si può ben capire che per queste realtà c'è un problema impellente di liquidità per proseguire l'attività. È su questo che interviene la Regione. E nel concreto la misura di aiuto come funziona? Allora, il tutto parte dalla legge di assestamento di bilancio votata l'estate scorsa, con la quale si autorizza l'amministrazione a concedere finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli attraverso la disponibilità del fondo di rotazione agricoltura. L'aiuto è erogato in regime de minimis e il prestito, di fatto a tasso zero, potrà essere estinto al massimo in 10 anni. Se la legge è dello scorso agosto, perché se ne parla solo ora? Allora, per rendere operativa la norma mancava un provvedimento che definisse gli importi massimi erogabili alle aziende in funzione del danno subito. Per semplificare al massimo il procedimento amministrativo e velocizzare le istruttorie delle domande, si è deciso di quantificare il danno economico con valori forfettari in base al tipo di cortura, alla resa media storica in un determinato territorio e alla percentuale di danno rilevata da ERSA. Le tabelle sono state approvate dalla Giunta regionale nella seduta del 14 febbraio e pubblicate sul BUR del 4 marzo, quindi solo ora si può iniziare a presentare le domande. Ci saranno poi risorse per tutti? Il capitolo attualmente ha una disponibilità di 1 milione di euro, che però non serviranno a coprire l'ammontare complessivo del prestito, bensì la quota interessi, sempre nel limite massimo dei 20.000 euro ad azienda previsto dal De Minimis. In base al meccanismo del fondo rotativo, ai tassi di interesse correnti, possiamo stimare molto grossolanamente che ciò si traduca in prestiti agevolati per una ventina di milioni circa. Dopo aver parlato delle zone vocate per l'olivicoltura con Ennio Scarbolo, tecnico dell'ERSA che ci cura questa rubrica, siamo arrivati all'impianto dell'oliveto. Cosa si deve sapere e cosa si deve fare? La scelta dei terreni agrari dove piantare gli olivi bisogna tener conto della piovosità, microclima, tipologia del suolo. Deve essere di natura drenante, dell'esposizione che deve essere possibilmente a sud, della pendenza che non deve essere eccessiva da ostacolare l'operazione di potatura, raccolta, distribuzione del presidi sanitari, sfalcio dell'erba. Tenuto conto di tutte queste considerazioni, dobbiamo scegliere l'appezzamento di terreno da destinare all'impianto. Qui si pone il problema della dimensione, ossia se vogliamo piantare olivi per produzione, olio per il solo uso familiare, sono sufficienti 1.000-2.000 metri quadri pari a 30-60 piante. Se invece è nostra intenzione è piantare olivi per produrre olive da olio, ai fini di vendita, in questo caso l'appezzamento o gli appezzamenti sono illimitati. Una persona può gestire dai 5 ai 10 ettari di olivo con adeguata meccanizzazione e con l'aiuto di una squadra di operai per la raccolta delle olive, che deve essere tempestiva. Si devono rispettare le distanze di impianto dai confini, da un minimo di 1,5 metri, in questo caso tutti i lavori di sfalcio dell'erba, potatura, raccolta, eccetera, si devono fare manualmente, oppure 3-3,5 se si vogliono eseguire le stesse operazioni meccanicamente. La preparazione del terreno. In pianura effettuare una ripuntatura mediamente profonda 40-60 cm su tutta la superficie. Eseguire una ratura profonda 25-30 cm. Squadratura e picchettamento. Distanze di impianto di almeno 5x5 con un minimo di 1,6-7 m fra le file e 5 m sulla fila, se si prevede di raccogliere le olive con scuotitore al tronco o alle branche. In collina tutte le operazioni sopra descritte risultano di difficile esecuzione. In questo caso si può effettuare uno scasso del terreno a buche, ossia smuovere il terreno dove verrà piantato l'astone di olivo per circa 1 metro per 1 metro, profondo 50-60 cm. Nota bene, assolutamente non fare i buchi con trivelle né in collina né in pianura. Le trivelle compatta il terreno sulle pareti ed ostacola l'espansione dalle radici. Le distanze di pianto sono le stesse della pianura. L'olivo ha bisogno di un palo di sostegno che duri nel tempo, almeno 10 anni. Questo perché in fase di allevamento la pianta sviluppa molto di più la chioma dell'apparato radicale. Pertanto ci vuole un palo di cemento, quelli dismessi dai vigneti, di ferro, quelli di ferro greccate che si mettono nelle vigne, oppure di legno, di robinia a castagno bete trattato, purché abbiano un diametro di 8-10 cm, conficcate nel terreno per almeno 50-60 cm, sporgenti fuori terra 100-120, non di più, altrimenti le fronde dei giovani olivi, con il vento, si strofinano contro il palo e si rovinano. Questi sostegni molto spesso vengono sottovalutati. Si piantano canne di bambù, pale di legno con diametri di 4-5 cm che con il tempo si rivelano insufficienti. Se non avete preso nota o avete perso qualche dato, il testo di questo intervento lo trovate sulla nostra pagina Facebook, quella di Vita nei Campi. Oggi con Franca Merluzzi, che ci cura la rubrica dei giardini, andiamo in comune di Fagagna a visitare le pertinenze verdi della casaforte La Brunelde, il cui nome, antichissimo, è ancora avvolto nel mistero. La Brunelde, da più di 8 secoli, appartiene ai conti d'Arcano, che furono vassalli imperiali, marescalchi e confalonieri del patriarca d'Aquileia. La casa torre duecentesca, ben difesa da muraglie e fossato, ebbe un primo ampliamento dopo il terremoto del 1348. Alla fine del 400 Giovanni Niccolò d'Arcano la ingrandì, trasformandola in residenza per lo svago, la caccia e gli ozi letterari. Il complesso è stato accuratamente restaurato a partire dagli anni 80 e qui risiede tuttora la famiglia originaria. Le visite consentono di apprezzare interni ricchi di arredi, ritratti, oggetti curiosi e rari. All'esterno, come nel Rinascimento, le aree verdi sono suddivise in corte d'onore, giardino alto e pomario. A est si aggiunge il parco. Entrando si notano l'aiuola con il pozzo, i cespugli di tasso, bosso, viburno e alloro. Il giardino alto è tenuto a prato, con boschetti di leccio, farnia, tasso e carpini che si infittiscono verso l'esterno e un tempo erano la ragnaia per passeggiare all'ombra e catturare gli uccelli, per gioco si dice. Una quinta d'alloro crea una cornice suggestiva per musica e teatro. Un rosetto separa questo spazio dal parco, con un grazioso specchio d'acqua. A ovest si estende il pomario con antiche varietà di melo e pero, pesco e albicocco, melograno, cotogno, biricoccolo, azzeruolo, mirabolano. La Brunelde si trova a poca distanza dall'oasi dei Quadri, su una riserva naturale in cui trovano rifugio anche le cicogne. Sì, le cicogne sostano spesso sul tetto della storica dimora, accrescendo il fascino del luogo. Ogni anno l'oasi riapre liberando alcune cicogne e altri animali selvatici. In tale occasione la Brunelde apre ai visitatori sia la parte storica sia l'ala inaugurata di recente per cerimonie ed eventi. Volendo si può raggiungere la Brunelde anche percorrendo l'itinerario ciclopedonale Colli in Bici, che tocca i comuni di Fagagna, Moruzzo e Coloredo di Montalbano. Per la rubrica dedicata alle nuove frontiere in ambito agricolo, zootecnico e ambientale, oggi diamo spazio, grazie alla collaborazione di Stefano Goveto, ai risultati di una ricerca condotta da Enrico Cumini, neolaureato in scienze agrarie all'Università di Udine, ora docente all'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Pozzuolo del Friuli. Risvolti interessanti per gli olivicoltori, quelli emersi dalla tesi di laurea dedicata a incompatibilità e impollinazione dell'olivo in Friuli Venezia Giulia, i cui risultati saranno presto illustrati assieme ai tecnici dell'ERSA che hanno finanziato la ricerca. Enrico Cumini, lei ha praticamente diviso in due grandi gruppi le varietà autoctone e non che vengono coltivate in Friuli, Venezia, Giulia. Che caratteristiche hanno questi due gruppi di compatibilità o incompatibilità? Recentemente è stato scoperto che per avere produzione di olive è necessario che all'interno di un appezzamento siano presenti varietà appartenenti a due gruppi di incompatibilità. Tutte le varietà coltivate di olivo appartengono a uno di questi due gruppi di incompatibilità e per avere produzione è necessario che le varietà appartenenti ad esempio al gruppo 1 vengano impollinate da quelle appartenenti al secondo gruppo e viceversa. Chi fa parte del gruppo 1, chi fa parte del gruppo 2? All'interno del gruppo 1 troviamo il leccino, la bianchera, la carbona, la cernizza, il gorgazzo, la rocca bernarda e la tonda di villa. Invece all'interno del gruppo 2 troviamo il maurino, il buga, il drobnizza, il grignan, il piasò e il pendolino. Facciamo un esempio concreto. Il bianchera è una delle varietà più coltivate in regione. Allora, perché produca di più a chi deve essere accostato? Il bianchera è una varietà autoctona molto importante in regione e appartiene al gruppo 1, quindi dovrà necessariamente trovarsi all'interno dell'oliveto una varietà appartenente al gruppo 2, quale ad esempio il Grignan. Questa scoperta può cambiare il volto dell'olivicoltura in regione, aumentando anche la produttività degli oliveti regionali? Sì, sicuramente, si potrebbe avere un raddoppio dell'allegagione e quindi conseguentemente della produzione di drupe all'interno dell'appezzamento. Con anche dei risvolti economici importanti? Sì, in quanto ci sarebbe un incremento del reddito da parte dell'imprenditore agricolo. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Scambi fiacchi all'otto frutticolo di Udine con prezzi alternanti. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 0,80 e 1,10 euro al chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 1,40 e 1,50. I peperoni gialli e rossi tra 2,50 e 2,80. Le melanzane tonde e i pomodori in grappolo tra 1,60 e 1,80. La scalola riccia tra 2,50 e 2,70. I finocchi, i cavoli e il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1 euro. Quello di Treviso precoce tra 1,50. Quello tardivo tra 2,50 e 3,50. I kiwi tra 1,50 e 2,20, le clementine spagnole tra 1,50 e 2,50, le arance tarocco tra 1,20 e 1,90 e le fragole tra 2,50 e 4 euro. Settimana con scarso prodotto nel settore della pesca per condizioni climatiche avverse. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 20 a 30 euro al chilo IVA esclusa, il rombo da 22 a 28, le ombrine da 13 a 22, le sogliole da 8 a 23, le canocce da 7 a 14, le seppie da 8 a 14, le mormole da 12 a 14, i calamari da 20 a 24, le cappe sante da 11 a 16 e manzancolle da 18 a 20. Infine, domanda ben intonata nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 6,05 e 6,35 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30, con marchio di qualità tra 8,90 e 9,30, mentre il latte naturale di vacca Franco Stalla, compresa refrigerazione e quotato dalla Camera di Commercio di Udine, a 38,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio sentiamo cosa ci riserverà il meteo per la settimana entrante. È iniziato con caratteristiche più invernali che primaverili, soprattutto per le frequenti nevicate sulla zona montana, che in quota sono state anche abbondanti, riportando l'altezza della neve al suolo a 1800 metri di quota su valori abbastanza elevati, intorno ai 2 metri, ma fino a 4 metri sul massiccio del Monte Canin, abbastanza in linea però con la norma. Su pianura e costa, i fronti atlantici hanno contribuito a portare piogge da abbondanti ad intense, dopo 2 mesi avari di precipitazioni, ed anche le temperature si sono abbassate, dopo i valori piuttosto elevati di gennaio e febbraio. Oggi è ancora presente sulla regione una massa d'aria fresca, e anche domani, lunedì, lo zero termico rimarrà attorno ai 1400 metri di quota circa, e con il passaggio di un debole fronte avremo probabilmente cielo coperto al mattino, da nuvoloso variabile al pomeriggio. Martedì inizierà ad affluire aria più mite da ovest in quota, con variabilità e temperature che nei bassi strati rimarranno stazionarie. Mercoledì l'afflusso di aria mite in quota sarà più consistente, con lo zero termico che risalirà notevolmente fino a 3000 metri circa, ma con inversioni nei bassi strati. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime intorno ai 15 gradi in pianura e fra i 12 e i 13 gradi invece sulla costa. Giovedì e venerdì, e poi soprattutto verso la fine della settimana, potrebbe avvicinarsi un nuovo fronte atlantico, ma l'evoluzione è ancora incerta, soprattutto sulla tempistica, che potrebbe far slittare il peggioramento verso sabato o domenica. È opportuno quindi, come suggeriamo sempre, seguire via via l'evoluzione delle masse d'aria in arrivo e conseguentemente anche l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano dedicato alla luna. Quan cal pluf el prim martes di lune, novin sec pui parche lune. Ovvero, quando piove il primo martedì della fase lunare, non avremmo più pioggia per quella luna. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.